Filippo. Pronto? Eccomi. Allora, io sono Filippo, sono orgoglioso di essere povero e di avere una pezza al culo. Vabbè. Sono orgoglioso. Ognuno si accontenta di quello che ha, che dico. Una sola, qua c'ha mezzo culo a disposizione da poter pezzare, si figuri. Sì, è una grande speranza. Ma io sono orgoglioso di questa grande speranza. Io ho raccontato un antidoto, cioè, in poche parole. Io nell'80 un barone che stava vicino a casa mia, durante la notte marito e moglie si sentono male e chiedono aiuto. Era un super miliardario questo ai tempi, questa grande villa, accanto a loro ci abitavo io con i miei familiari, questa piccola masseria, perché noi siamo una famiglia di contadini, questo ci chiede aiuto, noi soccorriamo questi, non so che se avevano mangiato funghi, non si sa, sentite male. L'avete gli avete salvato la vita entrambi? Entrambi, mia mamma in modo antico gli fa bere dell'olio, li salva, tutto a posto. Allora, cioè, come fanno? Qual è il metodo antico? La cura vendetta di sua madre? Olio, cioè, di ricino? L'olio, no, olio normale. Cioè, gli mettono imbuto in bocca, gli butta giù una fiascata d'olio. Bravo, a testa. Di olio, bravo, una. Questi vomitano e si salvano. E l'olio crea un intercapedine nelle mucose dello stomaco e il veleno non viene assorbito. Un antico metodo antiveleno. Ok. Allora, questi, mia mamma e mio papà li salvano. Stanno tutta la notte con loro. Io ero ragazzo, ventenne, io vado a letto, mia mamma rimane con mio papà con loro, la mattina gli dico una cortesia, noi ti offriamo dei soldi, l'importante è che tu non dici a nessuno che tu povero hai salvato la vita a me, ti raccomando non lo dire a nessuno. Allora perché io ripeto a dire, sono orgoglioso di essere povero, onesto. E naturalmente sua madre l'ha rifiutati con orgoglio. Logico che l'ha rifiutato. Chiaro. L'ultima cosa che ti dico. Ma nemmeno l'olio vi hanno no, rimborsato? No, ci vuole pagare l'olio con fior di milioni, non di lire. L'importante è che nel paese non si dicesse che la mia famiglia povera salvava loro ricchi.